Di casa, occhi fissi, fumando mio blunt, il mio cervello è in crisi, il rumore boom boom, te lo porto per strada, vedi la gente che si gira, è troppo alto, vada, sporca faccia, s'odia, resta con me, perché se aspetti ancora un attimo, vedrai pure che ci sono i war, vermi parassiti che s'atteggiano a banditi, riuniti sotto i palazzi, basta che li sfidi, che quel Doberman, che ringhiava su te, copi chihuahua, cane, mosso che vorresti per te, facce da pazzo, porti dietro un branco, ma che non valgono un cazzo, ehi, prova a guardarmi male, sai che pretendo stima, la tua faccia maiale non sarà più come prima. Aspetta che vicina la dose cattiva, diretta appena mi arriva, è come farsi d'eroina. Un altro giorno esco di casa, occhi visti, mi parli non ti vedo, non esisti per me, ti avverto perché finito il tempo delle favole, mi libero di piattole sul culo e sulle scatole, tutti appesi pesate, miei coglioni, lasciatemi stare, ne ho doppioni di sti fitti buoni, dammi qualcosa pure fuori dalle palle, cosa ne penso per il tuo amico ribelle? Non ho niente da dare e non voglio prendere, non voglio raccontare e non voglio attendere tutti i risvolti altalenanti delle tue chiacchiere misere, riprendile, riprenditi, ora sai che c'è, pago solo per me e per i miei vecchi amici, sei certo di rientrarci ma non sai quello che dici, ti mostro il conto e poi tornatene a fanculo, se hai bisogno di me, per me puoi alzare gli occhi al cielo. Sì, perché da troppo tempo va così, ne avrò di nome fossi tu, sei stato degli MC. E poi te li ritrovi dopo grandi successi, in fila sotto il palco con sorrisi più spessi, e fanno applausi come piovesse dopo grandi neberanni sulle loro promesse. Io non faccio una questione d'età, più che altro d'affidabilità, serietà. E leva il braccio dalle mie spalle, voglio un po' di calore ma non mi serve uno scialle. Ok, io coi miei cazzi quante volte ho fatto botte, si esce a testa alta, non siamo bitch o sei mignotte. MCB sulla pelle, marchiato a fuoco, criminal voice member, beccate sto logo. Sì, martini, vestini, pastecche nei giardini, ci vogliono più dolce, dolce sei per ragazzini. E tutto quello che io voglio di cuore, bisogno e pace, calda e vita dura, mi detestano perché è la mia natura.